Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori. E io sono Franco Schipani. Ciao Ale! Rieccoci Franco. Come tutti i venerdì siamo nei favolosi anni... 80. Ah, pensavo dicessi 70. Comunque oggi siamo nel 1986, caro Franchi. E chi c'è in cima alle classifiche? Sembrava un'infatuazione e poi invece è diventato amore. Papa Don't Preach, Madonna, una canzone, lei parla al padre, dice: papà, io il bambino lo tengo. Tu non predicare. Non predicare, non mi andare contro. Allora, tutti pazzi per Madonna, ma lo sai, cara Alessandra, che l'artista femminile ad aver venduto più dischi nella storia della musica, ha venduto 95 milioni di dischi negli Stati Uniti e complessivamente nella sua carriera fino ad oggi, quando ancora si vendevano i dischi, ben 350 milioni di copie. In tutto il mondo. Hai dei numeri, allora, per me. Esatto, per me, se tu entri nel campo dei numeri, allora io anche dirò numeri. Tu lo sai quanti studenti si iscrivono alle superiori e all'università nel biennio 86-87? Non ne avevo la più pallida idea, ma tanti sicuramente. 1.085.900 studenti, e di questi solo il 72.427 finiscono il percorso di studi. Gli iscritti a lettere sono il 22%, seguiti da economia e commercio al 21,5% e giurisprudenza con il 15,8%. E nelle quasi 30.000 scuole elementari studiano nel 1986 oltre 1.600.000 alunni, mentre gli insegnanti sono 110.000, un docente ogni 15 bambini. Ah, ecco perché venivano seguiti così bene all'epoca. C'era un maestro ogni 15 bambini. Che bello! Non male. Una famigliola la classe. D'altra parte, a proposito di famigliole, nel 1986 una famiglia per l'alimentazione spendeva mediamente al mese 460.000 lire. Famiglia sicuramente di più, perché abbiamo quattro figli, quindi dobbiamo fare anche una media. Anche no, perché tu, Franco, sei buon gustaio. Sì, sono buon gustaio, la mia mamma cucina benissimo. E allora forse spendeva meno, perché chi sa cucinare spende meno. Ma come li spendevano questi soldi? Ora te lo dico. Allora, il 15% per pane e pasta, il 30% per la carne, il 5% per il pesce, il 15% per frutta e verdura. Oggi, anzi, nel 2015, la spesa media alimentare è stata pari a 441,50 euro al mese. Si conferma la diminuzione della spesa per la carne, cioè la carne fa male, non si mangia, vegetali, esatto. Frutta. Aumenta la frutta, aumenta, sai cosa, anche la nostra mania per le acque minerali, per le bevande. Inevitabili ormai. Tutto così. E poi anche per succhi di frutta e anche verdura. Siamo diventati tutti più sani e salutisti? Ma secondo me sì, sai, visto il calo della carne, molta gente che mangia più frutta e verdura. Io quando ero piccolo, questa gente che tu proprio non capisci. Strane persone. Ma senti un po', a proposito di mangiare, a me viene in mente una cosa che mi ha molto colpito a proposito di Madonna. Ovvero, ho sentito circolare questa storia, che lei arriva a New York negli anni 80 e arriva sola con la sua valigetta di cartone e $38 in tasca, e poi è diventata lei Madonna. Ma è vero? Ma guarda, io non gli ho fatto i conti in tasca. Comunque Madonna sicuramente, da buona emigrante arrivata a New York, che era la città dei sogni, per inseguire il suo sogno, e tanti soldi in tasca non aveva, perché all'epoca i primi lavori che lei fece, faceva la modella per fotografi di nudo, si può dire. Poi posava? Posava, nuda. Poi quelle foto tanti anni dopo, quando è diventata ricca, se le ricomprate tutte. Capisci? Faceva anche la modella per artisti, andava nelle università, nei college dove riprendevano le modelle dal vivo, eccetera. E il suo primo film, forse tu non lo sai, ma è stato un film erotico per il quale lei ha preso soltanto $100. E che film era? Era un film del 1900. Il punto è che tu non l'hai perso. Il punto è che tu l'hai visto subito. E che altro c'era invece in classifica? Guarda, c'era questo brano che era molto bello. Thank you. questo è True Blue, Madonna. Franky, io comunque Madonna me la ricordo in un film, non è quello che dici te, è un film dell'85, di quando iniziava a recitare, ed è Cercasi Susan disperatamente. Era già una star, io l'ho incontrata proprio lì a Porta Autority mentre stava registrando per il film, l'ho intervistata, ero talmente emozionata che ho fatto l'intervista e non mi sono accorto che alle sue spalle c'era una nota marca di sigarette, quella quindi intervista non l'ha comprata nessuno perché era pubblicità, come si dice, nascosta. Bravo Franco, grande prova. Comunque guarda, c'è un altro gruppo che ha venduto tantissimi milioni di dischi e poi puff, è scomparso. Questi sono gli Ha-Ha con Take On Me, tanti dischi venduti. E un grande concerto a Napoli. Ah, lo sapevi. Certo, ma lo so perché Antonella Migliaccio la racconta come la sua prima esperienza concertistica della vita. Vedo, è andata a sentire gli Ha-Ha. La vedo ballare a Napoli. Comunque non possiamo mettere tutti i loro dischi che sono andati in classifica perché sennò dovremmo fare una puntata a parte. Una puntata a parte meriterebbe anche uno dei più gravi incidenti nucleari della storia. Il fatto è accaduto a Chernobyl, in Ucraina, dove si trova una centrale elettronucleare. Secondo la TASS, uno dei tre reattori atomici è entrato in avaria. Il fatto che dell'incidente sia stata data notizia tramite le fonti ufficiali, la TASS, cosa del tutto inusuale in Unione Sovietica, fa pensare ad una sciagura di grandi proporzioni. Ma un altro elemento confermerebbe le ipotesi più pessimistiche. Già dal primo pomeriggio, infatti, sono arrivate dalla Svezia, dalla Finlandia e dalla Norvegia notizie convergenti sull'arrivo nei cieli dei tre paesi di ondate radioattive provenienti dall'Unione Sovietica. Il 26 aprile a Chernobyl, in Ucraina, un incidente alla centrale nucleare provoca subito 32 morti, che diventeranno centinaia nei mesi successivi. Molti sono gli stessi soccorritori inviati sul posto per far fronte all'emergenza. Nei giorni seguenti una nube radioattiva contamina buona parte dell'Europa. Le conseguenze del disastro sulla popolazione locale sono terribili e durano per decenni. 5 milioni di persone sparse sui territori della Bielorussia e dell'Ucraina e della Federazione Russa vengono esposte al fallout radioattivo e a queste vanno aggiunte migliaia di bambini e non solo bambini che dopo anni sono stati colpiti dai tumori. Un grande dramma nel 1986 che tutti quanti ancora noi ricordiamo, ma sempre nel 1986, Alessandra, specialmente in America, c'è un altro problema, quello della separazione razziale, e c'è qualcuno che se ne sta occupando. Yeah. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia con Alessandra Fiori e Franco Schipani. Ciao. Ciao, siamo nel 1986. Franco, che cosa stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando Sun City da United Artists Against Apartheid, gli artisti uniti contro l'apartheid. Un brano bellissimo scritto da Steve Van Zandt della Heath Street Band. E sono arrivati un po' tutti, sono arrivati Lou Reed, Keith Richard, finanche Miles Davis, che proprio nessuno se lo aspettava, tanti davvero. Quindi collaborano tutti insieme. Collaborano, comunque le collaborazioni ci sono negli Stati Uniti come in Italia. Sentiamo qualcosa. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure. That's What Friends Are For, Diane Warwick, Stevie Wonder, Elton John e Gladys Knight. E poi Via di Qua, Mina e Fausto Leali. Via di qua, Franco, perché Via di Qua anche il governo Craxi. Oi. Eh sì, che il 27 giugno, dopo 1058 giorni di legislatura, cade. L'8 agosto lo stesso Craxi forma un nuovo governo, ancora un pentapartito, mentre il 10 novembre in America scoppia l'Iran Gate. Good evening. I know you've been reading, seeing and hearing a lot of stories the past several days attributed to Danish sailors, unnamed observers. Il 13 novembre del 1986 Reagan tiene un famoso discorso alle nazioni in cui dà la sua versione sullo scandalo che lo ha visto coinvolto per trattative segrete con il governo di Teheran. Armi in cambio della liberazione di ostaggi americani. La presidenza Reagan vacilla, ma lo scandalo viene poi superato. Insomma, Alessandra, Reagan ha detto agli americani: sono ancora il vostro uomo. I'm still your man. I'm Your Man, gli Wham, che nel 1986 si dividono. Pensa che quella sera io avevo i biglietti per due concerti, l'ultimo concerto degli Wham a Filadelfia e il biglietto per Frank Sinatra al Carnegie Hall di New York. Secondo te dove sono andato? A casa? A vedere Frank. Ma tutta la vita. Frankie, siamo alla domanda delle domande di ogni anno. Sì. Te la faccio? Vai. Va bene, Franco. Che succede al Festival di Sanremo nell'86? Beh, c'è uno che vince e uno che arriva secondo, però quello che arriva secondo ha detto: ma a me non dispiace. E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei. Va tutto bene dal momento che ci sei adesso tu, ma non dimentico amici miei che sono ancora là. Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Adesso tu, Eros Ramazzotti, che nel 1986 si aggiudica il Festival di Sanremo, è il clarinetto Renzo Arbore, il quale ha detto: sono contento di essere arrivato secondo perché largo e giovane se lo merita. E bravo, bravo Eros. Bello, no? Bello, non male. Comunque, da Sanremo ti porto a Milano, dove nell'86 succedono un po' di cose. Il 20 febbraio l'imprenditore Silvio Berlusconi acquista l'associazione calcio Milan. Noi abbiamo degli obiettivi molto precisi. Vorremmo fare una squadra che duri nel tempo, soprattutto una squadra che possa ritornare con stile, con classe, con cuore sulle scene nazionali e internazionali per ridare al Milan la sua tradizione e per dare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato al Milan. Franco, ma non ti ricorda un altro messaggio di Berlusconi? Cioè Berlusconi che scende in campo, non in calcistico. Campo. Comunque Berlusconi verrà nominato presidente del Milan il 21 marzo di quello stesso anno. E sarà, lo sappiamo, una lunga storia di amore per la famiglia Berlusconi e il Milan. E come sappiamo, da questa estate c'è la notizia della cessione della squadra ai cinesi. Comunque, sempre a Milano, il 18 marzo del 1986, il tribunale condanna all'ergastolo Michele Sindona come mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, curatore fallimentare della banca privata italiana. Sindona muore avvelenato due giorni dopo nel carcere di Voghera. E tre anni prima, nel 1983, Sindona rispondeva dal penitenziario di Otisville alle domande di Giovanni Minoli. Ecco, cosa le faceva credere che i 25 anni di galera che ha avuto negli Stati Uniti fossero meglio di un giudizio in Italia prima? Io pensavo che non dovesse essere condannato in America. Ecco, ma lei 25 si... anni e 25 giorni. Ma lei si è sentito tradito dall'America in questa condanna? Io mi sono sentito tradito da magistrati e da rappresentanti del nostro pubblico ministero americano, che sono stati scorretti, disonesti e forse anche corrotti. Corrotti da chi? Evidentemente da chi aveva interesse a farmi condannare. E chi era? Il solito gruppo italiano. Tutti hanno paura di Cuccia perché è un ricattatore abituale. E l'ho scritto anche ai magistrati, quelli non sono intervenuti. Che aveva commesso il reato di truffa e di aggiotaggio documentandolo nella Montecatini. I magistrati hanno paura di procedere perché lui si vanta di essere il padrone del Tribunale di Milano. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. Mix 24. Musica e storia. Tornati su Mix 24 Musica e Storia. Franco, quanti soldi vuoi in questo 1986? Non avevo tanti, speravo sempre che fossero di più. Comunque questo è il nostro Zucca con Rispetto, il protagonista assoluto del Festival Bar 1986. E lui i soldi in quel momento li ha fatti veramente. E li ha fatti. Il 4 aprile del 1986 è una giornata storica per tutto il mondo. Signore e signori, buon pomeriggio, siete collegati con il Tempio Ebraico di Roma per la visita del Papa, cattolici ed ebrei insieme nel nome dello stesso Padre. Un evento storico, una svolta importantissima nei rapporti non sempre tranquilli tra ebrei e cristiani. È la prima volta in 2000 anni che un Papa mette piede in sinagoga. Signor Rabbino Capo, la comunità israelitica di Roma, cari amici e fratelli ebrei e cristiani, che prendete parte a questa storica celebrazione. Vorrei prima di tutto insieme con voi ringraziare e lodare il Signore che ha disteso il cielo e fondato la terra. È la storica visita di Papa Giovanni Paolo II nella sinagoga, la prima in assoluto nella storia della Chiesa. Emozionante, emozionante. C'eri? No, non c'ero, ma l'abbiamo sentita negli Stati Uniti, in presa diretta, è stata veramente una cosa emozionante. E dopo di lui comunque arriveranno Benedetto XVI e Papa Francesco. Il 10 luglio, invece, dall'altro lato del Tevere, per protestare contro la sospensione dei suoi programmi causata da motivi finanziari, Radio Radicale lascia aperti i suoi microfoni agli ascoltatori e saranno giorni e giorni e giorni di insulti, finché il 14 agosto la magistratura romana ordina il sequestro degli impianti di registrazione della radio per vilipendio delle istituzioni e apologia del fascismo. Secondo te, caro Franco, quali sono le canzoni delle hit americane che avrebbero meritato di più di essere rispettate nelle nostre classifiche, che invece non sono arrivate quasi per niente? Ma compito arduo, però guarda, due sicuramente. Sì, Addicted to Love di Robert Palmer e How Will I Know di Whitney Houston meritavano di stare in classifica. Franco, ma viste, tu metti Whitney Houston così, viste anche la regina degli lei, anni Ottanta, soprannominata, sai come? The Voice da Oprah Winfrey. Comunque, tanto per dirti che le sue vendite complessive di album e singoli sono di 170-200 milioni di copie. Milioni più milioni. Quindi non è meno, tanto sì. Male. No, assolutamente. Ed è una delle artiste femminili di maggior successo di sempre, dopo Madonna, dopo Mariah Carey e Celine Dion. Meritava di più, però. Ma diciamolo che meritava di più. Meritava di più, hai ragione. Bravo. Perfettamente ragione. Bravo. Sono d'accordo con te, Alessandra. Ecco. Certo. Comunque, oltre ai successi americani, scommetto che anche quelli inglesi saranno stati ignorati in questo 86, però fermo, poi me ne parli, perché intanto oggi l'Inghilterra è uscita dall'Europa, oggi, in quest'anno, con la Brexit. Invece, nel 1986 è l'anno in cui l'Europa si andava formando. Il primo gennaio entrano infatti nella Comunità Europea Spagna e Portogallo e nasce l'Europa a 12 stati. Ecco, e adesso puoi dirmi dei tuoi cantanti inglesi. Ale, Alessandra, allora, di inglesi in classifica nel 1986 ce ne sono tanti, però su tutti questi due. Life, Dire Straits and Sledgehammer dell'ex cantante dei Genesis Peter Gabriel. Peter Gabriel, come ti piace dirlo anche tanto. Questo? Ok, altri da non ignorare. Beh, dai, che lo so che ci sono. Ci sono, lo perché sono, li ho visti. Concordo, sottoscrivo. Sì. Allora guarda, rilancio. Take it close, love, with a whole lot of soul. Rhythm Shuffle, Rolling Stones e Living in America, James Brown. Lo sai che non so se ti piace di più dire Rolling Stones o James Brown. James Brown in questo caso. Sai che la prima volta che ho incontrato James Brown, di sapere che gli artisti di colore negli anni 50 e 60 sono stati defraudati moltissimi di loro dei loro diritti musicali, insomma non li pagavano. Quindi hanno maturato nei confronti, diciamo, dei bianchi una certa reticenza, una certa diffidenza. Ecco, James Brown insieme a Chuck Berry e moltissimi altri era uno dei quei musicisti che, pure guadagnando milioni e milioni di dollari, un concerto, non solo, pagano $200,000, lui prima di salire sul palco doveva avere del cash in tasca, se no non saliva sul palco. E la prima volta che l'ho incontrato in riunione mi disse: "Hey man, where is my money? It's my fucking money, man. I'm not gonna go on the fucking stage without my fucking money." Ma lo sai che cosa mi viene in mente? Che cosa? Anche tanta gente che non è stata mai defraudata ha questo attaccamento per the money, money, money. E invece, Franco, dall'altra parte del mondo, in Russia, al congresso del Partito Comunista, Mikhail Gorbachev annuncia la glasnost. È un nuovo approccio che vuole affrontare le questioni politiche in modo trasparente. È un'importantissima apertura al dialogo e anche a una maggiore partecipazione. Il 28 febbraio invece a Stoccolma, in pieno centro, viene ucciso il primo ministro svedese. Leader del Partito Socialdemocratico è Olof Palme. Molte delle persone che mi piacciono hanno idee su cui non sono d'accordo e molte delle persone con cui sono d'accordo non mi piacciono. Palme mi piaceva molto. È stato ucciso perché era Olof Palme, un uomo che difendeva le sue convinzioni, parlando in faccia. È morto sul campo, direi, al servizio dei buoni ideali. Erano Henry Kissinger e Pierre Scori, ministro svedese. Il giorno in cui fu ucciso da diversi colpi di pistola, Palme era impegnato nella stesura del suo discorso per la conferenza di pace. Era un politico carismatico, un pacifista, impegnato nella lotta all'apartheid, mediatore delle Nazioni Unite nel conflitto Iran-Iraq. È vittima di uno degli omicidi più misteriosi del XX secolo. Ecco Franco, ma tu in questo 1986 vivi in America già da qualche anno. E quindi ci deve essere qualcosina nell'aria che ti fa... Nell'aria. Nell'aria c'è quando il rock incontra l'hip hop. Walk This Way, Run DMC e Aerosmith, il cantante, attenzione, degli Aerosmith, Steve Tyler, non si chiama Steve Tyler, no. Si chiama Stefano Vittorio Tallarico, è calabrese, del papà di Liv Tyler, hai capito? È calabrese. Siamo dappertutto. È tuo amico compare. Un conterraneo. Allora dobbiamo fare una mossa azzardata, a questo punto la possiamo fare perché noi qui a Mix 24 siamo pronti a tutto, lo possiamo fare soltanto esclusivamente perché Alessandro Campini, il nostro mago del board, può fare questo e altro. Vai! Erano sempre Run DMC, Aerosmith con Nino D'Angelo. Praticamente ci siamo sfracellati in inversione a U sulla Salerno Reggio Calabria. Io cara con te Alessandro. Non ci vengo in macchina. No, ma non ci vengo proprio. Intanto però ti racconto che il 10 dicembre del 1986 viene assegnato il premio Nobel per la medicina e a vincere è Stanley Cohen insieme a un'italiana. Dr. Stanley Cohen and Dr. Rita Levi-Montalcini. On behalf of the Nobel Assembly, per le sue scoperte e l'individuazione dei fattori di crescita cellulare. Viene premiata, come abbiamo sentito, Rita Levi Montalcini. La scienziata italiana, nata all'inizio del Novecento, ha dedicato la vita allo studio e dello sviluppo del sistema nervoso, che ha perfezionato negli Stati Uniti, dove ha vissuto per 30 anni. Nel 2001 è stata nominata senatrice a vita ed è scomparsa nel 2012 all'età di 103 anni. Una grave perdita, mi è dispiaciuto molto. Però ci sono degli arrivi letterari di quest'anno. Cosa arrivano, leggiamo? Cosa leggiamo? Arrivano dei libri che fanno epoca, che sono L'amore al tempo del colera di Gabriel García Márquez e It di Stephen King. Mentre il 26 settembre esce il primo numero di un fumetto che proprio quest'anno festeggia il suo trentennale ed è, lo sai? Dylan Dog. Bravo, ovvio. Bravo. E invece il 16 maggio negli Stati Uniti esce un film che per noi ragazzine, ma non credo solo noi ragazzine, Franco. Anche i ragazzini? Anche i ragazzini. Noi ragazzine di allora lo riconosciamo dalla prima nota della colonna sonora. Tu lo riconosci? Come fai? Mi sono subito comprato gli occhiali io. Ma tutti, è nata la... cioè il giubbotto? Vabbè, anche lo scopo, ma è tutto, ovvio, è ovvio. Tutto, tutto, si salutava niente. Col segno. Comunque è Top Gun, il film di Tony Scott, vabbè, un grandissimo successo di pubblico, che rende famoso in tutto il mondo lui, Tom, il Tom mondiale, il nostro Tom. Tom Cruise. E poi però il 24 marzo dell'86 è un altro il film a conquistare 7 premi Oscar ed è La mia Africa di Sidney Pollack. Comunque nel 1986, Alessandra, anche per la televisione italiana è un anno storico. Mi vuoi parlare di qualche programma che arriva nell'86? I programmi arrivano, tanti programmi, però l'arrivo più importante è quello dell'Auditel, perché il 7 dicembre si inaugura l'Auditel, quindi si sa esattamente quante persone guardano quel programma. E nascono un sacco di problemi in realtà. I problemi nascono tanti con problemi. L'Auditel, sì. Ma la televisione nel 1986... insomma, è un momento molto molto particolare, importante, sì. Perché c'è una famosa battuta di Beppe Grillo sull'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi. Una battuta che ha fatto esplodere una vera e propria bomba. Sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano? Terribile. Ecco, Craxi non gradisce quella battuta. Assolutamente. Non molto, e il comico viene cacciato dalla Rai. Lo cacciano davvero? Sì, dicono chissà grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci mai più. Ma noi adesso dobbiamo rispettare le classifiche del 1986. Ari può far bacco, Alessandra. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri al tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, forte, forte, ti vorrei. Lei verrà a testarne, le verrà, perché aspetto già. Bello impossibile, Gianna Nannini, e lei verrà, Mango. Bello impossibile, Franco, sei tu. Io le donne le conquisto con le soppressate, con la presenza fisica. Hai io ragione. Poi cucino. Ma vuoi ma mettere scherzi. Il fascino dell'anduia? Dell'uomo che in cucina ma e cucina. Cosa. Ma per carità, siamo una razza in via d'estinzione, Alessandra. Comunque sia, la soppressata è una scelta un po' azzardata. Ne convengo. Ne convieni? Assolutamente. Super azzardato comunque è un gol che ha segnato nel 1986 un certo Diego Armando Maradona con la maglia dell'Argentina nella partita contro l'Inghilterra. Azzardato, tu sai benissimo perché. Sono ancora arrabbiati, Alessandra. C'è la manina. Quella, la manos de Dios. Ecco ancora Maradona, in splendida condizione di forma, va via ancora Maradona, cerca il dribbling breve, serve ancora Valdano che si fa anticipare. Gol di Diego Armando Maradona che ha anticipato l'uscita di Shilton. Lo merita Maradona. Quinto minuto del secondo tempo, protestano gli inglesi perché dicono che Maradona ha toccato la palla con la mano. Ora rivediamo, può darsi anche che ci sia il fallo di mano. ecco l'azione, ecco Baldano che sembra aver sciupatolo tutto e va con il pugno ad appoggiare la testa, eccolo. Ed è stato lo stesso Maradona che, per giustificarsi, diede la responsabilità del gol alla mano di Dio, appunto. Ma nella stessa partita, 5 minuti dopo, Maradona segna anche quello che è passato alla storia del calcio come il gol del secolo. Si doveva far perdonare, insomma, in qualche modo. Sì. Beh, lui ci è riuscito tante volte. Ah, sì. Un altro, comunque, grande e controverso personaggio, nel 1986, a soli 20 anni, diventa il più giovane campione del mondo di pugilato, categoria pesi massimi, ed è naturalmente Mike Tyson. Quindi adesso, Franco, ti concedo di tornare sui tuoi lidi, anche se vuoi, guarda, persino a Nino D'Angelo, fatti male come ti pare. Lo volevo dire di Mike Tyson, che io ho conosciuto, quando l'ho visto la prima volta aveva la guardia del corpo lui dietro. No. Ma come, Mike Tyson alla guardia del corpo? E lui mi ha spiegato, mi ha detto: io ce l'ho perché se mi succede qualcosa a me io non posso alzare le mani, certo, perché mi denunciano subito, quindi gli dico alla guardia del corpo fallo tu, picchia piano, è un deterrente. Ma poi sai, io non darei tanto fastidio a Mike Tyson. Ma se lo... non credo, no, sai. Non credo, non è mai successo, credo proprio. Vogliamo far sentire una cosa invece del 1986 che mi sta particolarmente a cuore? Oggi il mio ospite non è la solita rock star americana, ma è Lucio Dalla. Ciao, facciamo un saluto in Italia. Oi. One, two, three. Ciao! Disco Ring. Siamo noi. Lucio, tu mi hai abbandonato 4 anni, 3 settimane fa nel mezzo del Texas. Ed ero io nel 1900. Quest'anno davanti al Village Gate con Lucio Dalla, quando stavo registrando Dalla America Russo, un evento che ho promosso e prodotto a New York. Al Village Gate, che è il locale, un locale storico dove si sono veramente esibiti il top del jazz, del pop, del rock, chi più ne ha più ne metta. Allora, vogliamo parlare di questo disco dall'America Russa? Scusa, sto confabulando attraverso il vetro con Antonella Migliaccio, che mi deve comunicare la sua scelta per questo 1986, no, che si sta concludendo. No, c'è un golpe, Franco. No, c'è un golpe. Antonella Migliaccio. Perché lei, da buona napoletana, ci siamo messi d'accordo prima, ho detto, guarda, lo scegliamo insieme il brano. E lei mi ha detto, che brano è? Ma guarda, è cattivissimo. Ho detto, guarda, è di un napoletano, si parla di un napoletano, si parla di Enrico Caruso. E poi non lo canta Dalla, facciamo cantare a Pavarotti, che ne dice, me lo fai mettere Caruso, da Dalla America Russo? E lei gentilmente mi ha detto, va bene. Vabbè, guarda, secondo me è un 95% Schipani e un 5% Migliaccio oggi, ma se questo ha deciso la democrazia... Grazie. Allora annuncialo, Franco, salutiamo il 1986 con una scelta... nostra in coproduzione, Schipani Migliaccio. Vi facciamo ascoltare Caruso di Pavarotti. Io vi saluto, ciao da Franco Schipani e da Alessandra Fiori. Ci rivediamo nel 1987? Assolutamente sì, venerdì prossimo. Ciao. Guido per il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E voglio bene assai, ma tanto scioglie in sangue.